Iran, il virus e le sanzioni, ma cosa fa più male? Russia, il Covid c'è, ma non si vede. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Moscow acted fast to try and contain the spread, imposing strict self-isolation requirements for almost 2 weeks now on anyone coming in from affected countries. ترس وجود داره، بیماری خطرناکیه، سرعت شیوعش تو کشورهای دیگه خیلی زیاد بوده، از اینکه این اپیدمی بشه قطعا میترسم. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, questo è Nessun Luogo Lontano, venerdì, l'ultima puntata di questa settimana. Quest'oggi vi proponiamo un racconto, racconteremo due regimi diversi, Russia e Iran, due situazioni diverse sia politiche che probabilmente di diffusione del virus. Dico probabilmente perché dalla Federazione Russa trapelano pochissimi dati, qualcuno dice troppo pochi. Oggi ci concentriamo e raccontiamo due paesi diversi che però hanno un filo comune, se volete, cioè le sanzioni. Sanzioni imposte all'Iran per il nucleare, sanzioni imposte alla Russia per la questione Crimea e Donbass. Come la sovrapposizione di queste due crisi, una sanitaria, l'altra geopolitica ma anche economica, incideranno sui governi? Aspetto i vostri commenti al 349-238-6666. C'è un altro modo però per interagire con noi e collegarsi alla pagina Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Se amate Twitter potete cinguettare ai due account da tenere d'occhio, Nessun Luogo 24 ovvero mio che è Giampaz. Con me naturalmente c'è tutta la squadra di Nessun Luogo: Antonio Tagli, Ilaria Sesana, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Claudia Schiattone e oggi in console c'è Carmelo Lauricella. C'è già qualcuno che ha i polpastrelli estremamente veloci e sta digitando al 349-238-6666 i primi commenti. Datemi tempo perché la prima cosa da fare, Carmelo, come ogni giorno, anche se è venerdì, è andare a sfogliare i nostri dossier internazionali. La prima notizia che ha catturato la nostra attenzione arriva ancora una volta dal Mali. Secondo le dichiarazioni delle forze armate maliane, 29 soldati sono stati uccisi in un attacco contro una base militare a Tarkint, città nel nord-est del paese. Sarebbe l'attacco più mortale contro l'esercito maliano di quest'anno. Non è stato ancora rivendicato, ma i vari gruppi jihadisti che operano nel Sahel, tra cui anche il Mali, il grande paese dell'area, ci hanno abituato a volte a delle lunghe attese prima delle rivendicazioni peraltro non sempre verificabili. La maggior parte degli analisti attribuisce comunque a uno dei gruppi armati attivi nell'area, lo ricorderete, vi sono sia legami con Al-Qaeda che legami con ISIS. Poi in India, perché sono stati giustiziati nelle scorse ore per impiccagione, è avvenuto all'alba di questa mattina, 4 uomini responsabili di uno stupro di gruppo e dell'uccisione di una ragazza avvenuta nel 2012. Quell'episodio scatenò l'ira e la reazione dell'intera società civile indiana con varie proteste in tutto il paese, generando poi anche una forte eco a livello internazionale, tanto che quell'indignazione, supportata anche da tanti paesi e società civili in giro per il mondo, portò il governo di Delhi a emanare una nuova legge contro la violenza sulle donne. In un paese, attenzione, dove le violenze sessuali registrate sono altissime, nel 2018, uno degli ultimi dati disponibili, si registrava una violenza contro le donne ogni 15 minuti. Questo di fatto renderebbe l'India, il gigantesco paese, uno dei luoghi più pericolosi per le donne. Il primo ministro indiano Narendra Modi in un post su Twitter ha detto: la giustizia ha prevalso, ha affermato anche che è di massima importanza garantire la dignità e la sicurezza delle donne. Non si è fatta attendere la risposta di chi? Di una giornalista e scrittrice, Nilanja Roy, sempre su Twitter, sempre cinquettando, ha replicato: la pena di morte potrebbe recare un po' di conforto alla famiglia, ma non fa assolutamente nulla per la sicurezza delle donne, per la violenza domestica, gli abusi sui minori e per riformare, ha aggiunto con un ultimo commento al vetriolo, un sistema giudiziario corrotto. E poi gli aggiornamenti dal fronte siriano. Vi ricorderete, abbiamo dato conto di quello che è stato l'accordo tra Mosca e Ankara, un cessate il fuoco, quella sottile, forse troppo sottile, troppo corta striscia tampone sulla cosiddetta autostrada, la M4, quella che congiunge la costa alla zona di Latakia con Aleppo. Lì pattugliamenti congiunti, in realtà la popolazione siriana l'ha preso molto male, dovrebbero garantire appunto un cessate il fuoco. Però ieri un attacco missilistico sempre alla zona di Idlib, è quella ormai contesa, il vero cuore nevralgico di quest'ultimo capitolo della tragica storia siriana degli ultimi 10 anni. Dicevo, 2 soldati di Ankara sono stati uccisi da un attacco missilistico, 1/3 ferito. Immediata la risposta dell'artiglieria turca, però non vi è stata A, nessuna rivendicazione, B, anche secondo Ankara è da attribuirsi a non meglio precisati gruppi armati non appunto identificati. Tra pochissimo vi darò conto dei vostri messaggi al 349-238-6666. Prima però l'ultima notizia arriva dall'Afghanistan, continuiamo a stare in Asia verso est. Sapete, l'Afghanistan sta vivendo un momento sia dal punto di vista politico che sanitario particolarmente sensibile, perché politicamente quel fragilissimo governo di Ashraf Ghani se la deve vedere adesso con quello che secondo alcuni è un processo di inclusione, integrazione inevitabile delle componenti più civili, più composte dei talebani. Purtroppo però è di poche ore fa la notizia che almeno 25 soldati delle forze di sicurezza afghane sono stati uccisi in un attacco. Un attacco che è avvenuto dove? Sud-ovest del paese, all'alba, la provincia è quella di Zabul. Sarebbero stati in realtà all'inizio i 6 poliziotti afghani a aprire il fuoco contro soldati addormentati. Fonti governative dicono che gli aggressori erano infiltrati legati ai talebani. Questo non è un fenomeno nuovo, purtroppo ne hanno fatte le spese nel corso dei lunghi anni della guerra in Afghanistan anche le forze della coalizione internazionale. Molto spesso durante gli addestramenti delle forze afghane, sia esercito che polizia, si trovavano componenti infiltrate dai talebani che sparavano sostanzialmente quello che qualcuno potrebbe aver definito un fuoco amico. Nella fattispecie, nell'attacco, gli assalitori sono poi fuggiti recuperando armi, munizioni e anche veicoli militari. L'attacco è avvenuto il giorno dopo che Asadullah Khalid, che è il ministro della difesa, aveva affermato che le forze del paese sarebbero passate a una posizione di difesa attiva a fronte dei continui assalti dei talebani. Dopo, lo ricordiamo, c'è stato un accordo di pace a Doha siglato con gli Stati Uniti. Se questi sono i frutti, ai noi e poveri afghani, evidentemente ve ne daremo conto. Continueremo a raccontarvi questa storia. Fatemi andare i vostri messaggi al 349-238-6666. C'è qualcuno che punta il dito sul fatto che in sostanza basta non fare i tamponi e magicamente il virus scompare, facendo riferimento a quello che saprebbe fare madre Russia, perdonami un po' di ironia, conchiude così l'ascoltatrice. Al 349-238-6666. Gli altri messaggi sono tutti ovviamente su Iran e Russia, per cui la prima cosa da fare, Carmelo Lauricella, è portarci a Teheran. Confidiamo che questo sforzo non debba essere sostenuto a lungo e che questo virus venga presto sconfitto grazie alla misericordia di Allah. Se Allah vorrà, tutti voi supererete questo brutto momento. Possa la grazia di Allah accompagnarvi sempre. Queste le dichiarazioni della guida spirituale Ali Khamenei. Tra pochissimo stiamo tentando il collegamento con Teheran, che per il momento non ci sta supportando. Proseguiremo in quella che è l'analisi e soprattutto quelle che sono le conseguenze della gestione, qualcuno dice già evidentemente mala gestione, del paese persiano riguardo al coronavirus, ma cercheremo, dicevo, di capire anche le implicazioni politiche. Un governo e i vertici iraniani che sono stati messi a dura prova e da una serie di eventi li ricorderete, dopo l'uccisione di Soleimani, che arrivava dopo una serie di proteste represse con la violenza, poi la risposta arrivata da parte dell'Iran con quel bombardamento missilistico sulle basi statunitensi in Iraq, su tutto ovviamente c'è l'ombra delle sanzioni pesantissime dopo la fuoriuscita dell'accordo sul nucleare da parte degli Stati Uniti. Prima di presentarvi il prossimo ospite, però, andiamo a fotografare quella che è la situazione dell'Iran in questo momento. Il Center for Economic and Policy Research ha dichiarato: non vi è dubbio che la capacità dell'Iran di rispondere all'epidemia di coronavirus sia ostacolata dalle sanzioni economiche dell'amministrazione Trump. Nonostante le esenzioni per le importazioni umanitarie, le sanzioni reintrodotte nel 2018 hanno creato come effetto secondario un alto rischio per le imprese, le banche e le istituzioni finanziarie globali, dissuadendo questi attori a partecipare a qualsiasi tipo di attività che coinvolga Teheran, compreso il commercio umanitario esentato. L'Iran si trova quindi a corto di medicinali, attrezzature mediche e forniture farmaceutiche essenziali. Nonostante la produzione nazionale, le aziende hanno problemi di approvvigionamento, dipendendo da ingredienti e materiali importati da Cina e India, con le quali gli scambi commerciali sono stati drasticamente ridotti. È necessario inoltre considerare il problema del trasporto. Le sanzioni, infatti, hanno spinto molte compagnie aeree e di navigazione a interrompere i contatti con il mercato iraniano. Il virus ha peggiorato ulteriormente la situazione. Un funzionario iraniano ha calcolato un calo del 18% negli scambi a causa della pandemia. Questo prima che l'Iraq, importante partner commerciale, chiudesse le frontiere e il prezzo del greggio crollasse sotto i $30 al barile. La riduzione del commercio regionale, l'evaporazione delle rimanenti entrate petrolifere e un tasso di inflazione che l'anno scorso ha toccato il 30% stanno avendo effetti disastrosi sulla capacità di gestione dell'emergenza. Per far fronte alla crisi, il governo è stato costretto a richiedere un prestito di emergenza di 5 miliardi dal Fondo Monetario Internazionale. Di recente, l'amministrazione Trump ha apportato un adeguamento delle sanzioni permettendo che alcuni aiuti umanitari svizzeri arrivassero in Iran, ma a detta di molti, quest'azione non è sufficiente. Questa è la fotografia della complessa, complicatissima situazione che l'Iran si trova a dover gestire. Sembra che, arrivati a questo punto, nemmeno la più raffinata diplomazia internazionale, sono un po' ironico in questo senso, non riesca a togliere un freno a un embargo che evidentemente sta colpendo la società civile iraniana. Mentre continuiamo a provare a collegarci con Teheran, do il mio benvenuto e ben ritrovata a Annalisa Perteghella, analista di ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, esperta di Iran. Perteghella, buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo. Buongiorno a voi. Allora, c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che in effetti sottolinea questo punto: com'è possibile che la diplomazia internazionale non riesca a mettere un freno a quello che è questo lunghissimo braccio di ferro quando a fare le spese sono evidentemente i civili? Della stessa parere era un recente articolo uscito su Foreign Policy pochi giorni fa, che sosteneva che sostanzialmente questo momento di crisi, la base comune, il coronavirus, potrebbe essere per Stati Uniti e Iran un momento per allontanare le tensioni, trovare una nuova piattaforma di diplomatica e forse trovare serenità nei rapporti tra le due nazioni. È plausibile secondo lei? In linea teorica sì, sappiamo che le crisi sono per eccellenza, diciamo, i momenti, appunto essendo non momenti ordinari, sono i momenti in cui si può cercare di ritagliare un qualche spazio per gesti straordinari, no? Per cui Iran e Stati Uniti, che sono un po' si sono messi all'angolo a vicenda, diciamo, potrebbero cogliere l'occasione. Il problema è che gli Stati Uniti, anziché allentare, sospendere le sanzioni, hanno varato proprio in questi giorni un altro giro di sanzioni. Quindi, anziché andare incontro alle esigenze della popolazione e alle richieste del governo iraniano, hanno ribadito che la loro politica è quella della pressione. Sì. Segnalo però che proprio ieri l'Iran ha concesso il congedo temporaneo dal carcere a un prigioniero. Lo sta concedendo a diversi prigionieri, in realtà, perché c'è un problema appunto di diffusione del virus nelle carceri, però questo in particolare è un cittadino americano di cui gli Stati Uniti richiedono il rilascio da 2 anni, dal 2018, da quando è stato incarcerato. Questo potrebbe essere un primo gesto da parte iraniana, una prima apertura, alla quale adesso gli Stati Uniti dovrebbero però rispondere con un'apertura anche da parte loro, diciamo. Certo, certo. Nella grammatica diplomatica, quando i momenti sono tesi, ogni azione dovrebbe corrispondere una reazione. Quando l'azione è positiva e in sostanza si allargano le braccia, si tenta un abbraccio, diplomaticamente parlando, più che mai in questi tempi, quindi la liberazione di un prigioniero. Dall'altra parte vi dovrebbe essere appunto una reazione, quindi una disposizione d'animo uguale. Torniamo a quello che è il tema, sanzioni e medicinali, perché l'amministrazione Trump continua a insistere sul fatto che sui farmaci non c'è nessun problema per far arrivare appunto i farmaci in Iran, però un sacco di studi, tra cui quello di Human Rights Watch, quello che è stato riportato dall'Atlantic Council proprio pochi giorni fa, sottolinea che si è creato un ambiente soprattutto finanziario, quindi le banche non per paura delle sanzioni da parte degli Stati Uniti, delle ritorsioni anche finanziarie, non hanno nessuna intenzione di aprire linee finanziarie con Teheran. Quindi c'è, al di là delle parole di Trump, c'è a tutti gli effetti un isolamento economico e finanziario de facto che impedisce l'ingresso di aiuti di qualsiasi tipo. Come si potrebbe superare questo aspetto? Io purtroppo, Annelise Perteghella, continuo a pensare che in Europa c'è qualcuno, un soggetto che potrebbe trainare l'Iran fuori dall'isolamento, e penso sempre al presidente Macron, forse sbaglio. Diciamo che in questo momento purtroppo gli europei, i paesi europei sono un po' concentrati su quello che è il problema a casa loro, no? Per cui la Francia, abbiamo visto proprio da una settimana prendere le stesse misure italiane, perché il problema sta scoppiando anche lì. C'è però indubbiamente uno sforzo europeo in atto da parte dei 3 paesi, Francia, Germania, Regno Unito, lì e 3, che hanno in realtà mandato degli aiuti a Teheran. In realtà però più di tanto non si può fare fino a che non vengono tolte o quantomeno sospese le sanzioni americane, che sono appunto quello che veramente strangola il sistema finanziario iraniano, lo isola e impedisce di fare e di ricevere pagamenti dall'Iran, per cui che ne dicano gli Stati Uniti, l'Iran non ha accesso alle medicine e ai beni umanitari che pure sarebbero esenti da sanzioni. La fotografia, come al solito, lucida e molto precisa, arriva da Annelisa Perteghella, analista di ISPI, esperta di Iran. Altrettanto lucidi, devo dire, i commenti degli ascoltatori al 349-238-6666. Molto secco un ascoltatore: nel momento in cui l'Iran affronta la pandemia, gli USA inaspriscono le sanzioni. Qualcun altro: buon pomeriggio sull'Iran, è mancato di dire che sul fronte armi l'approvvigionamento non è mai mancato. Così un altro ascoltatore. Qualcun altro che torna al tema di prima dicendo che questo coronavirus, con tutta la sua drammaticità e mortalità mondiale, non possa ripristinare almeno dialoghi di aiuto reciproco tra gli stati ormai tutti coinvolti, ammainando le bandiere. È un qualche modo un accalorato invito a quello che è la grande diplomazia internazionale. Ma quando mai gli embarghi non avrebbero colpito le popolazioni? Gli embarghi, a mio parere, mettono in ginocchio, e questo è un altro ascoltatore, le persone, non i regimi. Se potete smentirmi, ve ne prego. Così Alessandro. E qua è controversa la questione, Annelisa Perteghella, perché è chiaro che l'amministrazione statunitense vuole colpire. Ricordiamo i tweet di Trump, no? Abbracciava il popolo iraniano, allo stesso tempo demonizzava quella che è l'elite politica iraniana. In questo continuo braccio di ferro c'è qualche attore che si sta avvicinando, sta soccorrendo l'Iran e forse punta a ridisegnare anche il sistema degli equilibri. Non mi stancherò mai di ripeterlo: questo coronavirus è un'eccezionale opportunità dal punto di vista geopolitico, degli assetti internazionali, se ben sfruttato, e perdonatemi l'immenso cinismo con cui pronuncio queste parole, evidentemente si possono ridisegnare gli assetti mondiali. Annelisa, c'è qualcuno che sta facendo un passo verso l'Iran in questo momento? Beh, indubbiamente la Cina. La Cina sta facendo un'opera di propaganda, oserei dire, globale, un po' per, diciamo, passati in termini, ripulirsi la reputazione, no? Dopo che il virus ha originato lì, certo. Dopo non aver preso appunto gli adeguati provvedimenti in momenti iniziali, adesso sta cercando un po' di porsi come il collaboratore benefico, eccetera, eccetera. Vedevo proprio questo pomeriggio un video pubblicato dall'ambasciatore cinese a Teheran, in cui iraniani e cinesi cantano insieme ed esprimono la loro vicinanza reciproca in questo momento di difficoltà. Sì, ecco, sarebbe molto bello vedere anche da parte europea, visto che anche l'Europa appunto si sta trovando ad affrontare la stessa crisi, vedere da parte europea un'altrettanto forte espressione di solidarietà, che ci permetterebbe quantomeno di riprendere un attimo in mano la guerra della retorica, per questo. Sì. sì, per quanto possibile. Sì, grazie mille Annalisa Perteghella con questa sua ultima immagine, un hashtag se volete, la guerra della retorica ma anche della propaganda. I cinesi su questo sono e sono stati maestri, assolutamente non sto negando quelli che sono gli aiuti, attenzione ancora con questa litania degli aiuti, sono cose che sono state pagate in alcuni casi, alcune percentuali sono aiuti, in altri casi sono strumentazioni mediche che vengono pagate. Detto ciò, sta fornendo in senso lato assolutamente un aiuto, soprattutto l'expertise di medici che hanno già vissuto quello che hanno vissuto loro. Grazie mille Annalisa Perteghella, analista di ISPI, buona giornata, buon lavoro. E a questo punto possiamo andare direttamente a Teheran, dove c'è Raffaele Mauriello, che è professore alla facoltà di letteratura persiana e lingue straniere alla Alameda Bataille University di Teheran, insegna anche al master di geopolitica e sicurezza globale alla Sapienza. Professor Mauriello, buongiorno, ben ritrovato in nessun luogo. Buongiorno a lei, ascoltatori. Professore, una prima curiosità, un po' come dire di prima mano, da quando ha sospeso i suoi insegnamenti a Teheran? Ormai è passato tanto tempo che quasi non lo ricordo, credo sono perlomeno 4 settimane. Ricordo che sono stato per un lavoro in Belgio a fine febbraio, sono tornato e subito una lezione, e poi il governo ha annunciato la sospensione delle lezioni, prima in realtà non su tutto il paese ma soprattutto a Teheran, che era vicino all'epicentro, che lo ricordiamo è stata la città, sì, di Qom, una città molto vicina a Teheran, sì. Però in realtà poi subito il governo si è reso conto dopo la prima settimana di titubanza che in realtà bisognava essere più forti e quindi ha fermato l'istituzione. Noi siamo nel famoso lavoro da casa attraverso internet con le lezioni ormai da parecchio, direi quasi sicuramente 4 settimane, anche se adesso negli ultimi giorni noi è iniziato l'anno nuovo iraniano, quindi in realtà siamo in teoria in vacanza, ma nessuno se ne accorge perché da una quarantena siamo passati a un'altra quarantena, non è cambiato molto per noi. Le sensazioni e anche in parte le emozioni di un professionista, un ricercatore, un professore universitario che lavora a Teheran, è italiano come avete sentito, si tratta di Raffaele Mauriello, ma ben conosce il paese. Tra pochissimo proveremo a entrare un po' in quelle che sono le pieghe anche della sensibilità della popolazione rispetto a questa nuova emergenza, sempre con i riflessi geopolitici che Raffaele Mauriello potrà consegnarci. Prima però, professore, facciamo una piccola pausa, sentiamo come vanno le borse, incrociamo le dita naturalmente e poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, continua il viaggio di Nessun Luogo è Lontano, Iran, e poi tra poco andremo in Russia per capire come l'impatto del coronavirus possa anche tramutarsi in cambiamenti dal punto di vista della politica, non soltanto locale ma anche internazionale, le risposte dei due paesi diverse al coronavirus. Prima di andare a Mosca però proseguiamo il nostro viaggio, siamo ancora a Teheran, siamo con Raffaele Mauriello che insegna alla Alameda Bataille University di Teheran nonché alla Sapienza di Roma. Professor Mauriello, pur a distanza, pur insegnando online, che reazione ha avuto da parte dei suoi studenti? In buona sostanza, che aria si respira in città? Non glielo posso chiedere in senso stretto perché anche voi avete le uscite super limitate, però ecco il polso da parte della popolazione più giovane iraniana rispetto alla gestione di questa crisi. Sì, innanzitutto mi lascio dire che la situazione è molto diversa, io seguo chiaramente anche gli eventi in Italia. Noi siamo in quarantena, però non è una quarantena forzosa, nel senso che il governo ha lasciato alla cittadinanza la scelta di uscire o meno, non c'è la polizia, non c'è l'esercito in giro, quindi la gente in realtà può uscire. Io sono uscito ieri a fare la spesa, a comprare il latte e il pane, esco pochissimo, è una quarantena di scelta, diciamo. Però oggi è il primo giorno dell'anno, è festa in Iran, è un giorno molto strano perché noi siamo passati, come dicevo, dall'home working all'home festa, cioè nel senso che oggi a posto di andare a visitare i parenti di mia moglie che è iraniana come facciamo sempre, lo stiamo facendo attraverso WhatsApp con le chat di gruppo. Certo. Veramente una sensazione molto strana dopo varie settimane di quarantena. Sì. La sensazione dei miei studenti è stata all'inizio chiaramente un po' di stranezza perché noi siamo passati alle lezioni online e non eravamo proprio abituati, la mia è un'università di scienze umanistiche, non era preparata a una cosa del genere, quindi ci è costato molto, è stato complesso di formulare tutti i corsi. E a questo punto, le ripeto, è molto tempo che siamo in quarantena, non è una quarantena forte, addirittura io seguo i miei studenti, qua tutto il mondo è su Instagram, che alcuni escono, vanno al bar, alla caffetteria, sono molto preoccupato, le dico la verità, però appunto questa è stata la politica del governo. C'è un po' di incredulità e un po' di attesa, siamo in una sorta di limbo in realtà, anche perché abbiamo notizie contrastanti tra le informazioni che ci dà ufficialmente il governo e diciamo le informazioni che poi riceviamo dall'estero in termini di percezione di quanto è forte la crisi. Nel mio caso chiaramente la situazione è un po' diversa, perché io conosco membri della famiglia di mio amico che sono medici, lavorano in ospedale, quindi ho una percezione un po' più concreta di quanto l'epidemia sta colpendo il paese. Sì. Ecco, l'ultima domanda, professor Mauriello, quanto è in grado il sistema sanitario iraniano di controbattere questa epidemia? Sarebbe perfettamente in grado se avesse accesso ai medicinali e alle attrezzature come medicinali, soprattutto antivirali o le famose mascherine. Beh, devi pensare che il sistema sanitario iraniano è prevalentemente pubblico, c'è un'ottima formazione tanto di medici quanto di infermieri, tra l'altro è molto diffuso sul territorio. Io parlavo appunto con mio cognato proprio ieri riguardo la situazione dei posti letto nell'ospedale, lui mi diceva che sono pieni ma sono ancora capaci di accogliere pazienti. Sì. Il problema è che hanno sempre un maggior numero limitato di medicine antivirali, non hanno per esempio nel suo ospedale concretamente i famosi ventilatori di cui si parla tanto in Italia, sì, ma soprattutto hanno sempre meno quelle mascherine di protezione, i guanti chirurgici, le tutine che abbiamo visto sono molto importanti, perché c'è questo famoso embargo che non permette all'Iran di avere accesso, c'è la Cina che sta aiutando, gli altri paesi un po' meno, si è mosso un po' la Turchia, però in realtà il sistema sanitario sarebbe capace di controbattere con tutte le difficoltà chiaramente del caso, certo. Si trova in forte pressione dovuta alle sanzioni, alla difficoltà di accedere ai mezzi di cui ha bisogno. È chiarissimo, lo sottolineavamo prima anche con Annalisa Perteghella di ISPI. Professore, un'ultima domanda, se riesce a telegrafico nella sua risposta, vede dei pericoli per il presidente Rouhani, in più in generale per questo governo? Diciamo che si sono... Abbiamo enumerato una serie di eventi eccezionali, straordinari, molto spesso tragici in Iran negli ultimi 9 mesi, sostanzialmente, forse mai era accaduto nella recente storia. Quanto queste sono spallate per il regime, secondo lei, e quanto invece, magari vincendo la sfida del coronavirus, non sappiamo come, potrebbe uscirne rafforzato? Guarda, c'è un paradosso, perché negli ultimi tempi la gente, dopo l'uccisione di Soleimani, che era stata molto grave, parlava solo dell'incidente aereo. In realtà l'arrivo del coronavirus ha cancellato l'incidente aereo, nessuno si ricorda più quasi che è accaduto questo incidente, che è stato un trauma per la popolazione. In questo momento il tema è solo il coronavirus. In un certo senso ha fatto un favore al governo, un governo che però, mi lasci dire, è finito. Noi abbiamo avuto le elezioni parlamentari in Iran, hanno vinto i conservatori, il governo è ancora al governo, Rouhani, ma in realtà il suo tempo è finito da quando Trump è uscito dall'accordo nucleare, e quindi tutti quanti stanno già aspettando cosa succederà dopo, e nessuno lo sa. Certo, quale sarà il prossimo passo? Grazie mille a Raffaele Mauriello, lo ricordo, è professore di letteratura persiana e lingue straniere alla Alameda Bataille University di Teheran. Buona giornata, buon lavoro professore. Buon lavoro anche a voi. Allora, il professor Mauriello in chiusura ci ricordava ancora una volta come una tragedia, un'emergenza va a cancellare un'altra: l'abbattimento del Boeing, quell'errore imperdonabile da parte appunto dell'esercito iraniano. Allo stesso tempo ricordava come il governo Rouhani fosse sostanzialmente ormai la clessidra si è girata, la sabbia si sta esaurendo, ormai i conservatori torneranno al governo. Rouhani aveva scommesso tutto su quell'accordo nucleare, l'aveva raggiunto con Obama nel 2015, poi il dispetto tra virgolette evidentemente politico di Donald Trump, quell'accordo viene stralciato e si sgretola in maniera incredibile tutta quell'ala riformista iraniana che avrebbe potuto sicuramente riscrivere una pagina di storia diversa. 349-238-6666, tra pochissimo con Carmelo Roricella, con Claudia Scattone che sono qua, ma con tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano andremo a Mosca. Prima la vostra voce, naturalmente metaforicamente, perché vi ricordo, qualcuno ancora lo fa, in questo programma non prendiamo i messaggi vocali, ma per una questione di produzione, di snellezza, per riuscire a dare voce sempre in senso lato e non stretto anche a voi ascoltatori, dicendo che questa pandemia potrebbe essere un'opportunità a livello politico internazionale. Non è cinismo, mi fa eco un'ascoltatrice, sono d'accordo, il problema è che le grandi potenze stanno usando il massimo di diplomazia e strategia per muoversi con accurato appiglio, questione di interessi giustificati, lo mette tra virgolette così un ascoltatore. Quali passi ha compiuto l'Iran, immagino, verso all'interno, all'esterno, verso una distensione che poi lo stesso ascoltatore Massimo da Verona aggiungeva sul fronte armi, l'approvvigionamento non è mai mancato. Beh, la distensione, il grande momento di incontro fra l'Iran e gli Stati Uniti e in generale l'Occidente è stato quell'accordo sul nucleare. Quello doveva essere un incredibile acceleratore di aperture, anche economiche. È chiaro che se si distrugge quello, il meccanismo si è inceppato. Lì non è stato un granello di sabbia nel meccanismo, lì si è smontato totalmente il motore, che, lo ripeto, a mio modestissimo parere poteva essere un grandissimo acceleratore anche per una distensione in tutta l'area. Per ciò che riguarda i passi eventualmente di distensione compiuti all'esterno, lo sappiamo, la politica iraniana è una politica difensiva attraverso proxy anche in varie altre aree. Non si può chiedere, questo è evidente, ma non lo dico con partecipazione mia personale, ma entrando nella logica difensiva dell'Iran, adesso smettete di armare Hezbollah, adesso smettete di armare le milizie sciite in Iraq. Discorso complessissimo, ma ci torneremo, ve lo assicuro, in un'altra puntata di Nessun Luogo è Lontano. Allora, Carmelo, andiamo a sentire come vanno le strade italiane, poi una lunga ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano, tutta in Russia. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Нашим коллегам в регионах мы сейчас работаем с ними очень плотно, практически в ежедневном режиме. Хотел бы обратиться ко всем гражданам нашей страны. Il coronavirus è arrivato in Russia. Le autorità locali devono prepararsi a qualsiasi scenario. Sono le parole che il presidente Vladimir Putin ha pronunciato due giorni fa a proposito del propagarsi del contagio nel paese. Ma sui numeri del contagio rivelati dalle autorità è giallo. Nonostante la Russia condivida con la Cina un confine terrestre di 4.200 km, il numero dei contagi risulta sorprendentemente basso. A inizio settimana le autorità avevano denunciato solo 93 infettati su una popolazione di 150 milioni di abitanti. Secondo i dati diffusi dalla Federazione Russa, ad oggi Mosca risulta la città maggiormente colpita con 98 casi, seguita dai territori dell'Oblast con 17 casi, più altri sporadici casi dislocati nel paese per un totale di 199 casi. Un solo paziente sarebbe deceduto. Davanti a questi numeri, gli oppositori, ma anche una larga fetta della popolazione, sollevano forti dubbi. A questa percezione di scarsa attendibilità dei dati rilasciati si aggiungono le affermazioni di Peter Stano, portavoce della Commissione europea. Stano ha accusato la Russia di aver diffuso fake news sul virus per destabilizzare l'Europa. Verità? O, come detto dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ossessione russofoba dell'Occidente? E così Carmelo Lauricella ci ha portato direttamente a Mosca per andare a fotografare la situazione. Anche in questo caso abbiamo un regime che se la deve vedere da un lato con sanzioni internazionali, dall'altro con quella che è l'epidemia. Molti ascoltatori hanno sollevato dubbi sull'attendibilità delle cifre, sia quelle che provengono da Teheran che quelle che arrivano da Mosca. Intanto un altro ascoltatore su Facebook dice: scusate, ma le sanzioni alle nazioni vengono implementate a seguito di azioni contrarie al diritto internazionale. Come molti ospiti esperti di diritto internazionale hanno ripetuto a questi microfoni nelle settimane, nei mesi scorsi, il diritto internazionale funziona fin tanto che gli stati sono d'accordo, sono concordi su quello. Sembra strano a dirsi, ma a questo punto è veramente così. Buongiorno, ben ritrovata, Nessun Luogo è Lontano, ad Antonella Scott, Sole 24 Ore, esperta di Russia. Antonella, ciao. Buongiorno. Allora Antonella, ti faccio sentire la voce di una collega, è Giulia Minieva del quotidiano Novaya Gazeta, che fotografa la situazione in Russia in questo momento e va dritta al cuore del problema, cioè quanto sono attendibili le stime che arrivano dal Cremlino. Fra l'altro le agenzie stanno battendo adesso, rispetto a quello che abbiamo appena sentito, che non siamo circa 200 ma 253 casi di Covid-19, quindi i casi sono saliti da 199 a 253 in 24 ore. Sentiamo cosa dice Giulia Minieva sulla situazione e poi Antonella Scott ti chiederò se sei d'accordo con lei. Now the situation in Russia is not as bad and... Allora, al momento la situazione in Russia non è grave come in altri paesi europei. Per ora abbiamo circa 200 casi confermati di Covid-19, la maggior parte dei quali è a Mosca. Il 19 marzo una signora 79enne, malata cronica, che aveva già contratto il coronavirus, è morta di polmonite ed è stata la prima vittima confermata. Questa settimana il governo ha finalmente intrapreso delle misure per contrastare il virus, misure che includono la chiusura di scuole e università per 3 settimane, la cancellazione di tutti gli eventi sportivi e culturali. Le autorità stanno invitando la popolazione a stare a casa e ad evitare di frequentare luoghi pubblici, ma abbiamo ancora i centri commerciali aperti, i trasporti pubblici funzionano. E mi pare che le forniture di alimentari siano a posto. La gente è ancora libera di andare nei ristoranti, di frequentare i caffè, ma le attività più piccole stanno incontrando difficoltà perché in generale la gente preferisce restarsene a casa. Ovviamente ci sono delle persone in preda al panico, anche qui si assiste a una corsa all'acquisto di carta igienica e si fanno scorte di grano saraceno, che è un tipo di grano molto diffuso in Russia. Ma a Mosca, in Russia, non si sta applicando la quarantena totale, a parte per alcune persone che sono rientrate dall'estero nelle ultime settimane. Ovviamente, si suppone che in Russia al momento ci siano più casi di quelli accertati, ma è mia opinione che alla fine il numero di casi reali non sia così lontano dalle stime ufficiali. Perché la gente in Russia non viaggia molto all'estero e tutti quelli che sono tornati in Russia sono stati messi in quarantena. Inoltre, dato che in questo periodo qui fa molto freddo, non abbiamo molti turisti in giro e forse anche questo ha contribuito a ridurre la diffusione del virus. Di sicuro i casi aumenteranno nei prossimi giorni, ma penso che al momento il governo sia abbastanza pronto a gestire la situazione, quindi spero che si riesca ad affrontare. Questa è la voce e l'analisi di Giulia Mineva, giornalista di Novaya Gazeta. Antonella Scotti invece, Sole 24 Ore, sei d'accordo? È strano, no? Un quotidiano, un baluardo dell'opposizione che conceda al governo il fatto di essere pronto, di essere efficace. C'è fiducia da parte della collega nel fatto che Putin e il sistema sanitario nazionale russo potranno gestire la cosa. Sei d'accordo o vedi nevralgie sia dal punto di vista strettamente sanitario che dal punto di vista politico? Mi sembra che sia molto difficile farsi un'idea precisa di come sia la situazione nel paese, perché appunto un paese così grande con situazioni molto diverse, se pensiamo in particolare al sistema sanitario e quindi alla possibile tenuta del sistema, è veramente non è semplice avere un'idea di come sono attrezzati gli ospedali, di che forza medici hanno nelle regioni più lontane, che sono poi proprio le regioni su cui possiamo avere legittimamente più dubbi, perché appunto le regioni vicine dell'estremo oriente, della Siberia e dell'estremo oriente russo, quelle appunto che confinano, questi 4.200 chilometri di confine con la Cina, dove quindi gli scambi sono intensi, ecco, lì è molto strano che non ci sia una diffusione superiore a quella che le statistiche ufficiali danno. Certo. È vero che hanno la Russia, fin da quando ancora noi guardavamo ancora la crisi da lontano, la Russia già aveva chiuso il confine ai cittadini cinesi, e quindi anche questo probabilmente spiega perché le cifre sono così contenute. Il problema però è appunto il fatto che in realtà non è facile fidarsi, soprattutto lo ha detto anche la collega parlando del primo caso di decesso, l'unico finora, una signora anziana morta a Mosca per polmonite. Ecco, improvvisamente c'è stata un'impennata di casi di polmonite, che è proprio perché viene registrata la causa ultima del decesso, certo, però alla polmonite è molto facile, in mancanza poi di test è difficile dire quanti, però che ci sia la ragione sia stato il coronavirus. Certo, la voce che ascoltate state sentendo è quella di Antonella Scott, Sole 24 Ore, esperta di Russia. Antonella, l'emergenza del Covid-19 ha offuscato quella che è stata una delle ultime mosse di Vladimir Putin, che potrebbe portare a compimento un sogno davvero ambizioso, rimanere al potere fino al 2036, all'epoca avrebbe 85 anni, stravolgere la Costituzione, non più affidarsi a quell'altalena che aveva già fatto capo del governo, capo dello Stato con Medvedev, per esempio. esempio. Qualcuno ha detto, beh, che caso strano lo sta facendo adesso, in realtà questa riforma costituzionale è preparata da tempo. Ma vedi, e la domanda è sempre per voi osservatori di questi paesi, che per noi sono un filino più lontani per ovvie competenze, quanto questo coronavirus è una minaccia, cioè quanto questi regimi hanno un vero antivirus e ne usciranno sani, in senso lato evidentemente. Ma si può dire davvero che per Putin questa doppia emergenza sia capitata proprio nel momento più sbagliato, appunto quello in cui lui cerca di far accreditare da un referendum che a tutt'oggi è ancora fissato per il 22 aprile, un referendum, una votazione popolare in cui la gente è chiamata a dargli il proprio ok a questa riforma della Costituzione, in cui di fatto lui ha la possibilità, ottiene la possibilità di rimanere altri due mandati di 6 anni. Ecco, sì. Il coronavirus, la crisi che appunto per ora è stata alle statistiche ufficiali, è contenuta, anche se negli ultimi giorni c'è davvero un rallentamento preoccupante che potrebbe far vedere la Russia come l'Italia di qualche settimana fa. Ecco, certo. In queste ultime 24 ore i casi sono stati 54 in più. Dobbiamo anche considerare che la Russia sta vivendo anche una crisi, per questo dicevo doppia, la crisi del petrolio, con la sfida all'Arabia Saudita, quindi a chi resiste di più con un petrolio sotto quasi sotto ormai i $30 al barile, e che quindi porta via un sacco di una parte cruciale di introiti per il chiaramente quindi per la doppia, è una doppia crisi per lui, deve far vedere da una parte che il sistema è pronto ad affrontare l'emergenza coronavirus, che rischia di andare a toccare molto da vicino la popolazione. Quindi sì, potrebbe essere, è una sfida, potrebbe anche essere un'occasione. Il sistema russo è nato per dare, tra virgolette, il meglio nelle emergenze. Quindi se Putin riesce a dare l'idea di una macchina dello Stato che si mobilita, al telegiornale russo si vede in continuazione le riunioni oceaniche del comitato creato per affrontare l'emergenza, i provvedimenti che vengono presi a sostegno delle imprese. Ecco, potrebbe anche diventare, Putin potrebbe anche riuscire a se è fortunato, se poi alla fine già i contagi sono, riesce a mantenere il numero ristretto. Se tu dici, Antonella, perdonami, ti interrompo, se diventassi il nocchiero, il traghettatore che fa uscire la Russia da questa situazione iperdelicata, a quel punto, quell'investitura di zar ormai etichetta straabusata, però forse a quel punto, forse davvero sarebbe assolutamente a concia per la situazione. Grazie mille, Antonella Scotta, Sole 24 Ore, per essere stata con noi e averci aiutato a comprendere meglio le doppie sfide, triple ormai, per Vladimir Putin. A presto, Antonella. Arrivederci. (349) 238 6666, ancora Novaya Gazeta, tuona un'ascoltatrice, ci sono altri giornali in Russia, mi consiglia di sentire altri ospiti, ci accusa che sosteniamo che ogni colpa, qualsiasi cosa succede, insomma, è colpa della Russia. Mi duole ammettere, gentile ascoltatrice, che esiste anche una gerarchia, una metodologia nell'informazione. Se ci sono dei dubbi sull'attendibilità e la veridicità delle fonti da parte del regime, immediatamente non si chiama l'agenzia di stampa russa, si chiama il giornale di opposizione per cercare di verificare. Il giornale di opposizione ha detto che crede ai dati della Russia, quindi non capisco il suo sconcerto in questo frammento, che abbiamo mandato in onda. Detto ciò, vi faccio sentire, per il buon cuore di questa ascoltatrice, ma se ne farà una ragione immagino, un'altra voce sempre di Novaya Gazeta, stavolta è Kirill Martinov, che è il capo della redazione politica, perché le implicazioni del virus per il Cremlino, l'avete sentito da Antonella Scott, potrebbe essere, se ben gestito, un grande trionfo, oppure dovrebbe essere davvero una malattia politica. Sentite che cosa dice Kirill Martinov. Come sappiamo, fin dall'inizio di quest'anno, le autorità russe stanno giocando ad un gioco pericoloso. Hanno avviato quelle che chiamano riforme costituzionali e che di fatto sono assimilabili a un colpo di Stato. L'obiettivo principale di queste cosiddette riforme consiste nell'estendere il potere del presidente Putin per ancora molti anni. Per ottenerlo è stato scelto lo strumento più rudimentale, un'estensione del mandato presidenziale. E il Cremlino non ha incontrato quasi alcuna resistenza, mentre la società russa, al momento, riteneva di avere cose più importanti alle quali pensare. Ma adesso è intervenuto un altro elemento, qualcosa che il Cremlino non avrebbe potuto prevedere 3 mesi fa. Mi riferisco ovviamente alla pandemia da coronavirus. E se da un lato le misure d'emergenza per contenere l'epidemia potrebbero rendere il compito del Cremlino ancora più semplice, perché ad esempio si possono limitare le proteste motivando i limiti con la necessità della quarantena, dall'altro lato fattori come la crescente preoccupazione della popolazione, un rublo sempre più instabile e la botta d'arresto dell'economia potrebbero rendere l'intera situazione davvero imprevedibile. Forse il Cremlino non avrebbe dovuto tentare un colpo di Stato proprio nel periodo in cui c'è una pericolosa epidemia in giro per il mondo. Agli ordini, Carmelo Loricella, siamo in vero ritardo. Grazie mille a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, a voi per essere stati all'ascolto. Domani ore 10 vi aspetto col meglio di e poi lunedì di nuovo alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci. State a casa.